Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. I giri che cambiarono la storia del giro. Beh, lo sapete, ormai la carovana rosa ha cominciato a pedalare verso il traguardo finale di Milano e staremo a vedere come andrà a finire questo Giro d'Italia. Ma oggi qui a Olimpia vogliamo raccontarvi due edizioni in particolare del Giro d'Italia che in qualche modo ne hanno cambiato la storia e l'epopea. Beh, lo facciamo con chi già il Giro d'Italia ce lo sta raccontando dalle strade che sta attraversando la carovana rosa, ma che per l'occasione fa una brevissima tappa qui a Olimpia. Piero Augusto Staggi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie per l'invito. Caro Piero Augusto, ti trovo anche con un bel volume sotto il braccio, scritto a quattro mani con Ennio Doris, 100 storie, un giro, le tappe più emozionanti in un dialogo tra appassionati, edito da Mondadori. Splendida già la copertina con queste figurine, queste miniature dei ciclisti che riproducono la carovana rosa che sta attraversando l'Italia. Beh, ma Piero Augusto, pedaliamo, tanto complimenti per questa bellissima pubblicazione, ma cominciamo a pedalare nella memoria del Giro d'Italia. Andiamo all'edizione del 1965, sentite un po'. Gimondi in azione, da Saspesiva a Madesimo, 282 chilometri. Altra tappa decisamente impegnativa, con Vittorio Dorni che governa il gruppo e comanda le operazioni. Ecco il finale, verso Madesimo, a Dorni maglia rosa va all'attacco. Il giro ormai è suo. Pedalate sono il giusto omaggio ad un campione che ha vinto un grande Giro d'Italia. E allora, musica d'antan, campione di quell'epoca, ma che poi rimane nella storia del nostro ciclismo. Quel Giro d'Italia va a Vittorio Adorni. E perché ci concentriamo su questa edizione? Perché in qualche modo è un'edizione, per Augusto, che segna uno spartiacque, no? Tra l'epoca antica e l'epoca moderna del Giro d'Italia. Perché Adorni vince alla grande e con il distacco che a tutt'oggi ancora è il maggiore rispetto al secondo, parliamo di 11 minuti e 26 secondi su Zilioli, un Giro d'Italia dominato dall'inizio alla fine, no? Sì, assolutamente. Lui, credo, vada a memoria, credo che perda la maglia rosa, lui, Vittorio Adorni, a Calenzano, ma poi la riprende in questa tappa di Madesimo, ma domina assolutamente. C'è un giovanissimo Beppe Conti, la voce narrante che abbiamo ascoltato, racconta di Gimondi, è il Gimondi del 1965, quello che arriverà terzo a quasi 13 minuti da Vittorio Adorni, qui a quasi 12 il secondo, il povero Italo Zilioli che è l'eterno secondo. Un giro stravinto in tutti i sensi e in tutti i luoghi, come direbbero anche nelle canzoni. In quell'anno lì poi Gimondi vincerà il Tour de France 1965, quindi questo giovane ragazzo che dà una mano al suo capitano Vittorio Adorni poi andrà in Francia per vincere. Ma l'importanza è anche data dal fatto che Adorni toglie l'etichetta di Ciao Mamma, nonostante vada poi a condurre una trasmissione che si chiamerà Ciao Mamma. Adorni è un atleta che si eleva non solo ciclisticamente, è un grande campione, ma è soprattutto un grande personaggio. Un personaggio che riesce a interloquire con chiunque, tanto è vero che va a toccare le corde giuste di un grande giornalista che è Sergio Zavoli, che è il grande padre, colui che inventa il talk show sportivo e forse il talk show in senso generale, il processo alla tappa. Sergio Zavoli lo invita proprio a Madesimo e ne rimarrà incantato. Da quel momento in poi Vittorio Adorni diventerà e resterà per Sergio Zavoli, non solo per lui, un punto di riferimento, una voce narrante. Diventerà poi addirittura, basta andare a vedere nelle cineteche, l'Adorni che va a intervistare in moto i corridori durante il Giro d'Italia. Eh sì, tra l'altro un ruolo che, in cui Adorni si troverà talmente bene da farlo poi, una volta anche abbandonata la bicicletta, sarà per tanti anni commentatore del Giro, ancora nella carovana, con un ruolo e con un entusiasmo assolutamente protagonista. Oggi assolutamente da ambasciatore, lui è quello che lavora per l'organizzazione e accoglie gli ospiti più importanti, diciamo i re. Spesso capita perché è venuto il principe di Monaco, l'ha accolto Vittorio Adorni. Beh, allora, ci ha rilasciato proprio questa testimonianza Vittorio Adorni, consapevole che quel giro fu anche il grande giro della TV, che cominciava a far vedere in maniera significativa queste tappe. Sentite cosa ci ha detto. C'era una macchina al seguito, una 2003 Fiat grande, con sopra al tetto tettuccio c'era piazzato la telecamera col cameraman sopra la macchina. Cioè una cosa da favola, perché in fondo sembrava, però questo registravano certe fasi delle tappe e poi all'arrivo Zavoli le faceva vedere e ti chiedeva cosa hai fatto, perché lì, cosa hai mangiato, dove hai fatto, perché hai pensato, cioè è stato direi un inizio di una storia della televisione, soprattutto quasi diretta, ecco. Lo sentite ancora oggi che non è certo più giovanissimo, ma che grinta, Vittorio. A settembre compierà 80 anni, Vittorio, portati alla grandissima, vorrei dire, nato nello stesso giorno di Vincenzo Nibali e Bernardino. Allora insomma direi che la discendenza che poi è arrivata dopo in quel giorno, benedetto per le due ruote. Dicevamo del Delfino Gimondi, e che Delfino, proprio Adorni ci ha ricordato così la loro convivenza nella stessa camera in quel giro. Sì, era in camera assieme con me, quindi 65, quando lui è passato professionista era già un anno che era a Salvarani, e quindi quando è arrivato Gimondi, che anch'io avevo direi sponsorizzato per prenderlo perché ha vinto il Tour dell'Avvenire, e gli ho detto tu vieni in camera con me così non abbiamo problemi, intanto ero più vecchio, un po' più vecchio di lui, e logicamente dormivamo in camera assieme. E questo devo dire che è molto importante quando due persone vivono in camera assieme, riescono a capirsi, fare con Gimondi, quindi non c'è mai stato dei problemi. Abbiamo corso direi in sintonia. Io quell'anno ho vinto il giro, lui arrivò terzo, però terzo il primo Giro d'Italia fu una bella cosa, esperienza, ma soprattutto un bel colpo insomma per lui. Prima di chiederti un'ultima cosa, Pier Augusto, voglio farti sentire un altro contributo di Vittorio Adorni. Dicevamo giro di cesura tra il passato e l'era moderna, quello del 1965. Allora l'impresa di Adorni fa ritornare alla mente di un grande giornalista una dei campioni più grandi, forse il più grande della storia del nostro ciclismo, se i Bartaliani ce lo concedano. Sentiamo cosa dice proprio Adorni rispetto alla sua stessa vittoria. Bruno Raschi, che era il capo redattore, non ricordo più precisamente, ma comunque della Gazzetta dello Sport, che era in macchina con Toriani, quell'anno ha seguito tutto il Giro d'Italia, scrisse un titolo sulla Gazzetta dello Sport che mi fece onore, perché scrisse il più bel rosa dopo quello di Coppi. Per me ero tifoso di Coppi, immagini un po' la gioia di questo titolo, anche se Coppi non c'erano a far paragoni. No, paragoni impossibili con l'Airone, però questa vittoria di Adorni lascia un'eredità nella storia del Giro, no, Pier Augusto Staggio? Ma è assolutamente una vittoria, come ti ho detto, a mani basse, ottenuta con forza ma soprattutto con intelligenza, perché Adorni fa parte di quei corridori che non era un super, era buono a cronometro, andava molto bene in salita, aveva un handicap profondo che era quello della volata, sostanzialmente gli mancavano i 200 metri finali, perde un mondiale a Saint-Lange battuto da Jan Janssen, era stato fortissimo, forse più forte, però gli mancava questo spunto. Certo, paragonarlo a Coppi è impossibile, lui stesso lo dice, Coppi è un'unità di misura enorme, l'unico che possiamo veramente accostarlo, il duello può essere con Gino Bartali, con Eddy Merckx, no? E spesso molti di noi si aggrappano dicendo, come disse una volta Giampaolo Ormezzano, Eddy Merckx il più forte, Coppi il più grande. Ecco, con questa sua definizione forse accontentiamo tutti e diamo anche una spiegazione, no? Perché numericamente Eddy Merckx è stato bestiale, assolutamente un cannibale, 525 vittorie, una roba sproporzionata, però le imprese di Fausto Coppi sono là, assolutamente intoccabili. Se posso, nel libro che io con Ennio Doris ho scritto, abbiamo scritto la tappa delle tappe, ma per moltissimi resta quella la Cuneo Pinerolo, un'impresa incredibile, assolutamente, che ha sovvertito ogni logica, anche tattica. E beh, rimaniamo nella volgar prosa del Giro d'Italia, che prosa, avendo ripercorso la vittoria di Vittorio Adorni nel 1965. Ora, per Augusto, prendiamoci un attimo di pausa, poi riviviamo un altro giro storico che ha cambiato la storia della corsa. Olimpia, miti e verità dello sport. Pedaliamo oggi nella storia del Giro d'Italia qui a Olimpia, e guida d'eccezione è colui che ormai da tanti anni ci racconta proprio il Giro e tutte le maggiori corse ciclistiche qui ai microfoni di Radio 24, Pier Augusto Staggi, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Grazie per l'invito. Allora, Pier Augusto, abbiamo rivissuto insieme il Giro d'Italia del 1965, dominato da Vittorio Adorni, come giro spartiacque, no? Nella storia della carovana rosa per tanti minuti. Ma non meno significativo fu anche il Giro d'Italia del 1984, l'unico Giro d'Italia in carriera vinto da Francesco Moser dopo una battaglia fino all'ultima pedalata col professore Laurent Fignon, il compianto Laurent Fignon, il grande campione del ciclismo transalpino. Beh, andiamo a ritornare a quel giorno all'Arena di Verona in cui quella sfida epica si decise dopo l'ultima cronometro. Sentite. Eccoci ormai in Verona, a meno di un chilometro, ecco la cinta storica, le mura, ancora 150 metri, ecco qua, 150 metri, vedete il miglior tempo era quello di Ligier, 52.04, Moser 49.22, il tempo viene preso all'ingresso, ed ecco 49.26, l'apoteosi di Francesco che entra, ed ecco l'urlo, ecco l'arrivo di Fignon, anche quest'unica lacuna è stata colmata, Francesco Moser ha vinto il Giro d'Italia. Voglio dedicare questo giro a tutta la mia famiglia. Il boato dell'Arena di Verona, ero lì da ragazzino, penso da brividi ancora oggi, sì, a ripensarci. Sì, sì, è stata un'emozione immensa, è stata un'annata strepitosa, sì. Perché il Giro d'Italia è la ciliegina che mancava a guarnire una torta eccezionale. Ricordiamoci che lui a gennaio aveva stabilito due volte il record dell'ora, quello 51-151. Che è diventato anche un suo vino. È diventato un ottimo spumante, buonissimo, molto, molto quotato. E a marzo poi ha colmato un altro gap, va a vincere alla grande, in perfetta solitudine, la Milano-Sanremo, un'altra corsa che gli era sfuggita tantissime volte. E poi, quando tutti ormai pensavano che in realtà il Giro fosse troppo duro per un corridore come Moser, che soprattutto cominciava ad avere i suoi anni, quindi aveva più l'età della pensione che quello di poter vincere davanti a tantissimi pretendenti, a cominciare da Laurent Fignon, che era un signor corridore, un grandissimo atleta. Però, l'anno precedente aveva vinto già il Tour de France, il suo primo Tour de France. Esatto. Se Fausto Coppi porta il ciclismo nella modernità, Francesco Moser in quell'anno, con la sua equip, col suo gruppo di lavoro, porta il ciclismo a tutti gli effetti, non solo il ciclismo, mi permetterei di dire lo sport, perché veramente l'equip Enervit, quello, certo, di, sì, del, sì, professor Conconi, del povero Aldo Sassi, c'era una squadra eccezionale, che ha lavorato al progetto di questo record, e hanno portato avanti degli studi che sono poi serviti in tutti gli sport, dall'atletica anche al calcio, a incominciare dal mezzo meccanico, la famosa bicicletta ad asse variabili con le ruote lenticolari. Senza dimenticare, qua Olimpia l'abbiamo ricordato più volte, anche tutte le ombre che poi hanno accompagnato ancora oggi accompagnano l'attività del professor Conconi e del suo delfino Michele Ferrari. Però di fatto l'impatto emotivo e anche su il libro dei record dei palmarès fu clamoroso in quegli anni. Dicevamo, il grande rivale fu Laurent Fignon, il professore, questo campione straordinario che correva con gli occhiali e che con una montatura con gli occhi, con le lenti rotonde. È vero, sembra appunto da professore in bicicletta, ma la gamba era da ciclista di razza. Sentiamo come l'ha ricordato proprio al nostro microfono Francesco Moser. Fignon era uno scalatore soprattutto e si può dire che lui ha perso la corsa sul suo terreno, perché se la tappa del Blockhaus, dove lui ha perso da me un minuto e mezzo circa, che era andato in crisi, lui doveva staccarmi quel giorno perché era così, insomma, lo scalatore doveva arrivare davanti a me. Invece a 4-5 chilometri dalla cima si è visto proprio che non andava più, allora io ho fatto di tutto per guadagnare il più possibile. Ecco, interessante questo aspetto, Pier, perché tutti ricordiamo la cronometro di Verona, ma di fatto forse fu proprio quella tappa del Blockhaus un po' a tenere aperto un giro che Fignon avrebbe potuto già chiudere in quel momento, no? E sì, proprio quest'anno torniamo sul Blockhaus. Senti come con quale emozione lo attende proprio Moser. Credo che si faccia da quella parte che l'avevamo fatto in quell'occasione, e ricordo che c'era già via una fuga, io sono andato a prenderli e non guardavo in faccia nessuno, dovevo cercare di andare più forte possibile fino all'arrivo per guadagnare il tempo, perché sapevo che era lui l'avversario più importante del giro, aveva la maglia poi del resto, e io gliel'ho strappata proprio quel giorno al Blockhaus. Senti, Vince Moreno Argentin, la cronaca. Infatti, straordinaria tappa. Vince Moreno Argentin, e lui fece una cronometro. Sostanzialmente Moser quel giorno fece una cronoscalata, e a tutti gli effetti ha ragione a dire che vinse al 90% il giro lì, perché a livello mentale Francesco capì che poteva essere l'anno buono, e Laurent Fignon subì in quell'occasione una debacle molto dolorosa. Per 2 o 3 giorni rimase veramente molto spaesato. Poi si parla, appunto, come hai detto tu, della sua Ave Verona, ma quello era terreno di Moser. Certo. Poi raccontiamo quello che vogliamo, però Moser lì si era preparato troppo ed veniva da 6 o 7 mesi di allenamenti specifici su un mezzo meccanico sopraffino. Tra l'altro ci fu una polemica incredibile che dura ancora oggi, perché il clan, la squadra, la Renault di Fignon accusò anche nei mesi, negli anni successivi, l'organizzazione di aver favorito Moser, ostacolando in qualche modo la prestazione di Fignon con i coni di d'aria degli elicotteri, no, che si sarebbero, no? Addirittura dissero che sì, l'elicottero della Rai, che in realtà basta vedere le immagini su YouTube, sono altissime, sì, non hanno i teleobiettivi di oggi, però che si era messo alle spalle di Moser per aiutarlo, quindi dare il vento, per così dire, davanti a Fignone. Però queste sono, senti, ti faccio sentire che ne pensa ancora oggi Moser. Lui a cronometro andava molto più piano di me, perché avevamo fatto la cronometro a Lucca, dove non ero andato proprio forte e lui aveva perso 3 secondi al chilometro. Poi abbiamo fatto la cronometro dalla Certosa di Pavia a Milano e anche lì ha perso 3 secondi al chilometro da me. E quando siamo arrivati all'ultima tappa, se io avessi avuto lo stesso rendimento che nelle altre cronometro, erano più chilometri, avevo lo spazio per vincere il giro. Dopo l'ho guadagnato ancora di più perché ho usato anche la bici speciale e tutto quanto, che io gli ho dato, mi pare, 2 minuti e mezzo a Fignon, e ho vinto il giro per più di un minuto. Sì, un'impresa straordinaria che rimane nella memoria del Giro d'Italia e di tutti noi appassionati. Ricordiamoci, ahimè, Fignon mi stava molto simpatico, ho tifato contro Fignon solo una volta, in questa occasione, perché ero filo moseriano, però Laurent Fignon perse clamorosamente anche un Tour de France all'ultima tappa nella crono dei Campi Elisi da Greg LeMond, Se era non sbaglio un po' per 8 secondi, 8 no? Secondi, 8 secondi, il 8 secondi abbiamo il parlato minimo. Di Adorni come il maggior distacco nella storia del Giro, quello in una corsa a tappe. Ecco, ti chiedo, abbiamo veramente pochi secondi, ma di spendere le ultime parole proprio per questo campione che ci ha lasciato prematuramente e che credo che abbia lasciato un segno profondo comunque nella storia del ciclismo. Guarda, Laurent Fignon è stato veramente un grande campione e soprattutto devo dire un grande signore a tutti gli effetti, un po' un intellettuale in bicicletta, uno che si interessava di tutto, che era avido di libri, voleva capire, comprendere, è stato un grande corridore, ha avuto soprattutto molta sfortuna, una sfortuna che noi abbiamo conosciuto sportivamente parlando, ma devo dire che purtroppo la sfortuna più grande l'ha avuta come uomo, perché l'abbiamo perso troppo presto, e credo che una persona come lui, con la sua intelligenza e le sue capacità, servirebbero veramente al grande movimento ciclistico mondiale. Io lo vedevo molto bene come un grande consigliere nell'organizzazione mondiale del ciclismo. Ebbene, lo ritroviamo Fignon, Moser e tanti altri campioni in questa pubblicazione, 100 storie, un giro, è edito da Mondadori e scritto da Ennio Doris e Pier Augusto Staggi, le tappe più emozionanti in un dialogo tra appassionati. Allora, Pier Augusto, grazie per questo volume, grazie per essere stato ospite di Olimpia. Grazie Io a te. Vado subito a cominciare a leggerlo, sentite che comincio già avidamente a sfogliarlo, e a te ti rimando in carovana perché... Io torno al mio posto, fino in a Milano, fino a Milano ci devi raccontare questo giro. Forza Italia, forza i nostri ragazzi, forza Nibali e chi dietro di lui. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.